Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siccome il tempo di incubazione è sui 5-6 giorni almeno, quello medio, e il tempo di incubazione massimo arriva a 12-13 giorni, per vedere degli effetti delle misure di prevenzione e controllo è necessario attendere almeno 1 o 2 settimane. Noi ci auguriamo di vedere l'effetto entro 10-14 giorni, ecco. Ha spiegato molto bene, l'avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il direttore del reparto del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, che è stato spessissimo ospite qui a Effetto Notte, ancora lo sarà, a proposito degli effetti di contenimento che si dovrebbero vedere, dice, rispetto alle misure che si stanno prendendo in Italia nelle prossime almeno 2 settimane, che saranno cruciali. Ovviamente tema sempre in primissimo piano un po' in tutto il mondo, buona parte anche di questa puntata di Effetto Notte sarà dedicata a questo argomento, con vari tagli però. Per quanto riguarda per esempio anche lo sport, è appena apparsa una notizia, proposta della Lega Calcio, recuperi 7-8-9-3, Inter contrari, adesso capiremo di cosa si tratta. E poi anche per quanto riguarda la pulizia delle scuole che sono chiuse nelle regioni, che poi vi ricorderò, insomma, sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, alle quali si sono aggiunte anche Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Pesaro. C'è un problema, un contenzioso anche che riguarda le società, le imprese che si occupano di fare le pulizie nelle scuole. Ce ne occuperemo, così anche di come vengono approntati in questa situazione di emergenza i reparti di terapia intensiva, che insomma cominciano a essere occupati in buona parte da chi in queste regioni dove ci sono i focolai soffre appunto del virus, del coronavirus. Non ci occuperemo solo di questo, andremo anche su altri argomenti, per esempio il fatto di cronaca nera molto grave che è successo a Napoli, con il ragazzo di 15 anni che ha tentato di rapinare un carabiniere. Il carabiniere gli ha sparato, l'ha ucciso e adesso è indagato per omicidio volontario. Perché? Cercheremo di capirlo in questa puntata, come tutte le altre cose. Per i vostri commenti, ve lo ricordate, pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi comodamente giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp li potete inviare come sempre al 349-238-6666. Poi durante il giorno, per tante notizie in anticipo, il Twitter Roby con la Y, Linetta Basta Giordano, e se no durante la diretta Effetto Notte, appunto, che riporta le dichiarazioni e le affermazioni più importanti della puntata. Coronavirus, sono 1.835 contagiati in Italia, a questi vanno aggiunti 149 guariti e 52 morti con patologie pregresse. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea: se tutti i paesi fanno il massimo, il virus si può contenere. L'impatto economico del coronavirus, l'OCSE taglia le stime dell'economia mondiale, pronti a intervenire la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale. Siria, il presidente turco Erdogan minaccia, presto milioni di profughi verso l'Europa. Bruxelles avverte, rispettiamo l'accordo, Ankara faccia lo stesso. Il minorenne rapinatore ucciso a Napoli, il carabiniere che gli ha sparato è indagato per omicidio volontario. Maltempo sulla Liguria, dopo i timori per i movimenti della frana e la conseguente chiusura dell'A6, l'autostrada è stata ora riaperta in entrambe le carreggiate. Sport, gare partite alle prese con rinvii e posticipi, calendari da riscrivere non solo per calcio e motori. E per il calcio c'è una buona notizia, la finale della Champions League femminile del 2022 si giocherà a Torino. Partiamo quindi dalle notizie legate all'epidemia del coronavirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, contenere il Covid-19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Misure precoci e aggressive possono interrompere la trasmissione, ha detto il direttore generale dell'OMS, nel giorno in cui in Italia ci sono le prime guarigioni nella zona rossa. Sul fronte economico, però, l'OCSE vede crescita zero per quest'anno per il nostro paese. L'effetto coronavirus rischia di azzerare la crescita italiana. A lanciare l'allarme l'OCSE, che ha tagliato le stime di aumento del PIL 2020. Quest'anno l'economia italiana resterà quindi ferma dopo lo 0,2% segnato nel 2019 e contro lo 0,4% di incremento previsto a novembre. Per l'OCSE è a rischio non solo l'Italia, ma l'intera economia globale. Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale si dicono pronti ad aiutare gli stati membri alle prese con l'epidemia Covid-19. Anche la BCE considera il coronavirus un nuovo elemento di incertezza per la crescita dell'Eurozona, con un impatto su export e servizi. Tanto che, dice il vicepresidente Luis de Guindos, Francoforte è pronta a ricalibrare gli strumenti per garantire l'inflazione ai livelli previsti dall'Eurotower. E Bruxelles userà ogni strumento disponibile per salvare la crescita, afferma il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni. Certamente non possiamo minimizzare l'impatto economico della diffusione del coronavirus, perché questo impatto è già nelle cose, ma anche nelle previsioni rilasciate stamattina dall'OCSE si parla di un rallentamento della crescita, non di situazioni paragonabili a quelle di 10-12 anni fa. L'Istat intanto ha rivisto al rialzo le stime di crescita dello scorso anno. Il PIL è aumentato dello 0,3% contro lo 0,2% inizialmente previsto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Mercati internazionali hanno iniziato la settimana con un segno più, bene fino ad ora anche Wall Street, unica piazza negativa proprio Milano, inflessione dell'1,50%. Nel frattempo il governo italiano ha annunciato l'arrivo di una manovra da 3,6 miliardi. L'Italia è il primo paese che annuncia una manovra per combattere la recessione dovuta al coronavirus, a riferirlo il vice ministro all'economia Antonio Misiani. Il governo ha annunciato una manovra da 3 miliardi e 6 che verrà approvata entro questa settimana. Siamo il primo paese europeo a farlo e stiamo affrontando con tutte le nostre possibilità un'emergenza che rischia di avere conseguenze negative anche per l'economia. Il premier Giuseppe Conte convoca i capigruppo per decidere i tempi di approvazione. Intanto il PD incontra le parti sociali. Maurizio Landini della CGIL chiede di guardare oltre l'emergenza. Il punto su cui bisogna ragionare è come si utilizza, tra virgolette, anche quello che sta succedendo per affrontare i problemi di fondo che il nostro paese aveva comunque. Il sistema sanitario pubblico, che si è dimostrato una grande garanzia per il nostro paese, finalmente deve essere ulteriormente potenziato. Ma l'opposizione contesta. Matteo Salvini della Lega commenta: 3,6 miliardi di euro sono come dare l'aspirina a chi ha la broncopolmonite, ne servono almeno 50. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quanto al bilancio dei contagi italiani, oggi il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati. Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. A questi vanno aggiunti 149 guariti e i 52 morti, per lo più in età avanzata e con patologie pregresse. Tra i 50.000 della zona rossa e chi ha obblighi di quarantena, sono migliaia le persone a cui si rivolgono le restrizioni decise dal governo, ma non mancano i casi di chi le ha violate con pesanti rischi penali. C'è chi ha provato ad uscire dalla zona rossa e chi non ha rispettato la quarantena. In entrambi i casi si va incontro a sanzioni fino all'arresto. Se questa è la settimana più importante per la verifica del funzionamento delle restrizioni, vale la pena ricordare anche i rischi a cui va incontro chi le viola. Nell'Odigiano in 18 sono stati denunciati per aver tentato di raggiungere località al di fuori della zona rossa e, visto che le misure sono state prese per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, le sanzioni prevedono il carcere fino a 3 mesi e la multa di 206 euro. Stesso discorso per chi, essendo venuto in contatto con un contagiato, non rispetti l'obbligo di quarantena domiciliare, come è successo ad una donna di Piacenza. Restano poi gli obblighi di segnalazione ai medici di situazioni a rischio e chi non lo farà sarà denunciato, avverte anche il governatore della Campania. Infine, per i casi di autoisolamento, le limitazioni, più che dalle leggi, sono dettate dal buonsenso e, se non sono previste esplicite restrizioni per altri profili, da più parti si levano appelli alla responsabilità per limitare ad esempio gli spostamenti e collaborare ciascuno alla riduzione del contagio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è arrivata poco fa la notizia che sono tutti negativi i test al coronavirus a cui si sono sottoposti i membri della giunta della regione Lombardia, effettuati dopo la positività dell'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. Dall'Unione Europea intanto si dà il via a una task force. Il Museo del Louvre che resta chiuso, Macron che annulla tutti gli impegni, tranne quelli legati alla lotta contro il coronavirus e il divieto di eventi pubblici con più di 5.000 persone. Anche in Francia cresce l'allarme contagio, con almeno 100 persone risultate positive, tra cui 2 decessi. E intanto la Commissione Europea presenta il Corona Response Team, una task force per affrontare l'emergenza, della quale fa parte anche il commissario all'economia Paolo Gentiloni. Ad annunciarlo la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che sottolinea come l'Agenzia del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie abbia portato il livello di rischio da moderato ad alto. Dichiarazioni più rassicuranti arrivano oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che plaude le misure dell'Italia, secondo la quale contenere il Covid-19 è fattibile. Misure precoci e aggressive possono interrompere la trasmissione. E intanto nella provincia cinese dello Zhejiang si registra il primo caso di contagio di ritorno del coronavirus dall'Italia. Ma c'è anche una buona notizia: 18 province hanno ridotto l'allerta. Saliti a 89 casi di coronavirus negli Stati Uniti, 2 finora i decessi. Primo caso anche a New Delhi, in Tunisia e in Russia. Tutti sarebbero collegati all'Italia. Primi casi anche in Portogallo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Poi naturalmente ci sarà uno spazio più ampio per questo argomento, vedo anche molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte relativamente ai vostri stati d'animo in questa situazione così eccezionale. Spostiamoci intanto all'estero. Sale il livello di scontro tra Unione Europea e Turchia sui migranti al confine greco-turco, già migliaia i profughi siriani che hanno tentato il passaggio in Europa. Il recato turco sui migranti obbliga l'Europa a fronteggiare una potenziale nuova crisi ai nostri confini, riaccendendo la già elevata tensione diplomatica tra Bruxelles ed Ankara. Il presidente turco non si sente sufficientemente sostenuto al momento, ma con tutta la dovuta comprensione per Erdogan è inaccettabile che questo venga risolto a spese dei rifugiati, ha tuonato la cancelliera tedesca Merkel. Berlino per ora non traccia paragoni con la crisi del 2015, che mise a dura prova i nervi del paese, ma osserva preoccupata. La Commissione europea sostiene di voler mantenere fede all'accordo con Ankara e si aspetta che Erdogan faccia lo stesso. Il sultano però alza ulteriormente il livello di scontro parlando di milioni di migranti in arrivo in Europa. La Turchia riferisce di 120.000 profughi che avrebbero già varcato la frontiera a Edirne. I numeri forniti da Atene sono in realtà pari a un decimo. In questa guerra di propaganda sulle cifre l'Europa prova a far sentire la sua presenza. Domani i presidenti delle tre istituzioni comunitarie saranno al posto di confine greco di Orestiada per rendersi conto della situazione. Frontex ha annunciato un intervento rapido. La portavoce Isabella Cooper a Nessun Luogo è Lontano. Le guardie di frontiera lavoreranno sotto il comando delle autorità greche, svolgendo attività di sorveglianza, ricerca e soccorso, ma anche quelle dell'identificazione e registrazione dei migranti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo delle elezioni in Israele, al voto oggi per la terza volta in un anno per tentare di formare un governo. Le urne stanno chiudendo praticamente in questi istanti, arriva proprio adesso un aggiornamento. Il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu è il primo partito di Israele con 37 seggi, secondo i primi exit poll diffusi dalla TV canale 13 sulle elezioni, le terze appunto, come dicevo, in un anno. Secondo il partito blu-bianco di Benny Gantz, fermo a 32 seggi. Poi vediamo quali saranno i risultati definitivi. Intanto, per quanto riguarda invece le presidenziali degli Stati Uniti, dopo essersi ritirato il candidato democratico Pete Buttigieg starebbe considerando l'ipotesi di dare il suo endorsement, il suo appoggio a Joe Biden nelle primarie democratiche per la Casa Bianca, così riferisce la CNN. Di nuovo in Italia con la cronaca, il minorenne rapinatore ucciso a Napoli, il carabiniere che gli ha sparato è indagato per omicidio volontario. Poi ci collegheremo nel corso di questa puntata con Napoli per avere altri dettagli. Per il treno deragliato vicino Lodi, a meno di un mese dal disastro ferroviario del Frecciarossa, deragliato appunto ospedaletto lodigiano lo scorso 6 febbraio, provocando la morte dei due macchinisti e 31 feriti, è stata riattivata la circolazione dei treni dell'alta velocità sulla linea Milano-Bologna dopo il dissequestro dell'area a fine febbraio e il successivo intervento di oltre 100 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, che hanno lavorato 24 ore su 24 per il ripristino appunto della linea ferroviaria. Nel frattempo prosegue senza sosta il lavoro dei consulenti della Procura di Lodi, che si sono occupati in passato anche dell'incidente ferroviario di Pioltello del gennaio 2018. Sono loro che dovranno consegnare ai magistrati la relazione sulle cause e sulle responsabilità del disastro. Ma il tempo è stata riaperta in serata la carreggiata sud della 6 Savona-Torino nel tratto Altare-Savona, minacciata dalla frana che 3 mesi fa in carreggiata nord aveva travolto il viadotto Madonna del Monte, ricostruito e inaugurato il 21 febbraio. Le autorità competenti hanno quindi dato nulla osta, l'autostrada è ora aperta in entrambe le carreggiate. Clima: questo inverno è il terzo più caldo degli ultimi 60 anni in Italia, ma il primo nello stesso periodo per quanto riguarda il nord Italia e il secondo più secco al sud. L'inverno meteorologico appena concluso sale inoltre al primo posto se si considera la media delle temperature massime in tutta Italia. Per chiudere, lo sport, il calcio e lo sport mondiale provano a ripensare i calendari per superare le difficoltà create dal coronavirus. Ne parleremo nel corso di questa puntata, così come anche della buona notizia che arriva per il mondo del calcio. La finalissima della Champions League femminile 2022 se l'è aggiudicata a Torino, con grande soddisfazione del presidente della Federazione Calcio Gravina, del presidente della Juventus Andrea Agnelli, della sindaca di Torino Appendino e della tecnica della nazionale femminile Milena Bartolini. Bene, direi che conclusa qui la sintesi della giornata, quindi dopo la viabilità possiamo cominciare ad approfondire con gli ospiti i vari temi a partire dal coronavirus. E a proposito dei vostri stati d'animo, Rita dice: anche se nella mia città Trieste ci sono 3 casi, io sono contenta di poter riprendere a frequentare cinema, musei, teatri e luoghi di cui sentivo la mancanza. Mentre Elena dice: a parte il panico del primo sabato, più che altro pensando alla situazione economica del nostro paese cerco di essere fatalista. Elio dice: razionalizzando il più possibile, senza isterie che non mi appartengono o assalti al supermercato, fidandomi di ciò che dicono e suggeriscono gli esperti sanitari. Dice: sperando di ascoltare Radio 24, che per ora dice a causa della neve non si sente. Dove sei, Elio? Non si capisce da dove chiami, da dove scrivi. Ci sentiamo un momento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, come sempre, lo sapete, ricchissimi di aggiornamenti in diretta, con la sintesi della giornata che ho concluso poco fa, e poi adesso gli approfondimenti con gli ospiti e i vostri messaggi, molti sul vostro stato d'animo relativamente a questa situazione eccezionale che stiamo vivendo un po' tutti, soprattutto chi è nelle zone rosse o gialle. Cristina dice: sono nella zona gialla e dopo l'iniziale panico ho pensato di diminuire molto le mie uscite, alcune obbligate dai divieti, cinema, palestra, altre scelte da me perché il supermercato si può andare anche una volta se necessario a settimana, eccetera eccetera. 349-238-6666 il numero per sms e whatsapp per i vostri commenti, per inviarli, oppure li potete scrivere comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mentre Henry dice: Roby, tu suppongo sei ricca e spesso in via Monte Napoleone. Io, vabbè, dice questo Enrico, ma quanto costa un Rolex il carabiniere sparatore? Quanto prende di stipendio? Qualcosa non quadra. Non è che per forza uno può decidere anche di spendere tutti i suoi soldi in un orologio che gli piace moltissimo ed evitare poi di usarli. Aveva 23 anni questo carabiniere, quindi può averglielo regalato i suoi genitori, uno zio, una zia, una nonna. Non è necessario essere straricchi per avere un bel orologio, soprattutto se te lo regalano. Comunque, passando ad altri argomenti, direi di soffermarci, perché ne parleremo di altri argomenti, però è immancabile fare un punto sul coronavirus, che in parte avete già sentito nella sintesi della giornata, ma è davanti agli occhi di tutti il fatto che il tema è sempre centralissimo in quasi tutto il mondo. Ricapitolando, quali sono oggi le notizie più importanti quindi relativamente al coronavirus? L'OMS che dice contenere il Covid-19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi, e poi ha detto pieno sostegno il direttore generale dell'OMS alle misure prese dall'Italia. Per quanto riguarda il nostro paese, in particolare il commissario all'emergenza Borrelli ha aggiornato così in conferenza stampa a proposito appunto dei contagiati e dei dati. Il totale complessivo delle persone contagiate da coronavirus nel nostro paese e quindi ancora malati è di 1.835. Il totale delle persone decedute arriva a 52. Poi Gianni Rezza, che avete sentito anche all'inizio, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che spesso qui Effetto Notte, ha detto comunque niente panico, è un incremento atteso questo dell'aumento dei contagi, perché vengono fuori quelli che già settimane prima stavano cominciando a covare questo virus. Sempre su questo argomento sentiamo Galli, primario del Sacco, che dice fronteggeremo comunque questa marea. Io credo che si riuscirà a sostenere la marea se non diventerà ancora più montante, anche trovando soluzioni nuove e diverse. Il fattore limitante principale è personale addestrato e messo in condizioni di lavorare in sicurezza, perché non possiamo rischiare che sia il personale a venirci a mancare perché si ammala, quindi questo credo che sia facilmente comprensibile. E sentiamo Giovanni Rezza, appunto, che vi citavo anche prima, che dice l'effetto delle nostre misure di contenimento, di cura, eccetera, si dovrebbe vedere nei prossimi 10-14 giorni. Siccome il tempo di incubazione è sui 5-6 giorni almeno, quello medio, e il tempo di incubazione massimo arriva a 12-13 giorni. Per vedere degli effetti delle misure di prevenzione e controllo è necessario attendere almeno 1 o 2 settimane. Noi ci auguriamo di vedere l'effetto entro 10-14 giorni. Ecco. Poi, per quanto riguarda l'Unione Europea, la Commissione Europea pensa a una task force per l'Europa. E c'è il primo caso in Sardegna, il primo caso in Molise. Poco fa ho visto in questi istanti il primo caso anche in Trentino. L'appello della Regione Lombardia, gli over 65, consigliano insomma di stare a casa. E poi lo avete sentito, positivo il virus e ricoverato l'assessore regionale Mattinzoli, però tutta l'altra, il resto della giunta della Regione Lombardia è risultata, ve lo dicevo poco fa, negativa al virus. L'OCSE parla di minaccia economica senza precedenti per l'economia mondiale. Il PIL globale passerà al 2,4% nel 2020 contro il 2,9% del 2019. E in Italia la crescita dovrebbe purtroppo essere a zero nel 2020. Avete sentito che il governo comunque ha annunciato una manovra di sostegno da 3,6 miliardi. L'ONU intanto ha svincolato 15 milioni di dollari per sostenere la lotta al coronavirus. Gli Stati Uniti esprimono la loro fiducia verso l'Italia, verso la Corea del Sud nella lotta al virus. E poi un altro encomio è stato nei confronti del comandante della nave che era stata ferma tanto tempo nel porto di Yokohama in Giappone, il comandante Gennaro Arma, capitano italiano della Princess Diamond, che è sceso per ultimo da questa nave. Nel frattempo però ci sono altri 6 stati che chiudono le porte ai viaggiatori dall'Italia. Sono le Figi, l'isola Salomone, Nauru e isole Marshall, tutte nel Pacifico, e anche lo stato africano dell'Angola. Mentre Ryanair ha ridotto il piano di voli a corto raggio, principalmente da e verso l'Italia, fino al 25% per 3 settimane. Ma dopo tutto questo, come se la cavano gli ospedali italiani nelle zone rosse? Lo voglio chiedere a Cristina Mascheroni, che è presidente dell'Associazione degli Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri. Buonasera, dottoressa Mascheroni. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Perché Borrelli, il commissario straordinario all'emergenza, ha detto: le nuove persone contagiate da coronavirus asintomatiche o con sintomi lievi in isolamento domiciliare rappresentano il 50% degli ammalati, a fronte del 40% ricoverato con sintomi e il 10% in terapia intensiva. Riescono soprattutto in Lombardia e anche Veneto gli ospedali con i loro reparti di terapia intensiva, che in genere servono per tante altre problemi, incidenti, malattie, a sostenere questo peso, dottoressa Mascheroni? Per il momento sì, ma temo che se non verranno prese seriamente in considerazione le manovre, le misure di contenimento, ancora per poco. Dall'inizio del manifestarsi del primo caso di Covid-19 a oggi, già il nostro sistema sanitario ha messo a disposizione più posti di quello che aveva. 15 giorni fa, prima di questa epidemia, in Lombardia, a causa dei vari tagli, mancanza di personale, avevamo più o meno 600 posti letto. In questi 15 giorni di terapia intensiva, in questi 15 giorni siamo riusciti ad arrivare ai 900, quindi a aumentarli notevolmente. Ci aspettiamo, come ha detto l'assessore Gallera, che un aiuto anche da parte del privato accreditato, portando risorse fresche di almeno, parlavano di altri 300 posti di terapia intensiva. In questo modo riusciremo ad affrontare l'emergenza. L'emergenza a cui stiamo andando incontro. Dottoressa Mascheroni, vedevo che il Ministero della Difesa ha reso disponibili, sta per rendere disponibili 6.600 posti in 80 caserme. Potrebbero essere adibiti anche questi a terapia intensiva, o diventa complesso in questo tipo di strutture? Allora, diventa complesso perché bisogna comprare i macchinari, bisogna comprare i ventilatori, bisogna avere a disposizione anestesisti, rianimatori e infermieri dell'area dell'emergenza, dell'area critica, che ci sostengono nel lavoro e aiutano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Molto probabilmente questi posti potrebbero essere utilizzati per un isolamento a corte, di corte dei casi più lievi, dei casi meno sintomatici, di quel 40% che non necessita del ricovero in terapia intensiva. Questo sì, sicuramente. Senta, ma lei immagino avrà un po' di lunga carriera, no? Nella, diciamo, appunto, essere arrivata a essere presidente della federazione dell'associazione degli anestesisti e rianimatori ospedalieri. No. È mai successa una cosa del genere, di trovarsi in una situazione così, a dover chiedere ulteriori reparti? No, vabbè, io lavoro da solo 22 anni nel sistema sanitario. È assolutamente la prima volta che ci troviamo di fronte a un'emergenza di questo tipo. Il problema non è la gravità del paziente, è anche la gravità del paziente, assolutamente non voglio sottostimare, sottovalutare la letalità di questo virus e l'importanza delle reazioni di questo virus, ma quello che fa temere di tutti di più è il numero, la numerosità dei pazienti che si presentano nei pronto soccorsi e che si presentano tutti assieme. Mm-hmm. E quindi è questo che mette in crisi il sistema. Troppi pazienti, troppo in poco tempo. Solo ad oggi, dal nostro osservatorio, dal mio osservatorio, avevamo ricoverato nelle nostre terapie intensive circa 150 pazienti per il Covid-19. In 15 giorni abbiamo 150 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un numero del genere non c'è mai stato, cioè mai nessuna patologia ha portato a un ricovero così massiccio in poco tempo di pazienti nelle terapie intensive. Questo è l'aspetto più problematico, questo per quanto riguarda la Lombardia, lei sta dicendo intanto. Sì, vedevo che l'assessore al welfare della Lombardia Gallera, tra le altre cose, oggi ha annunciato questi caschi che aiutano i pazienti a respirare, sono la nuova strategia per combattere il coronavirus, evitando di aggravare la situazione di pazienti con un quadro clinico non particolarmente complesso e non ancora ricoverati in terapia intensiva. Quindi ci saranno anche questi caschi con l'acronimo CPAP. Sì. Sì, in realtà la CPAP e il passaggio successivo prima di arrivare all'intubazione, che è la ventilazione non invasiva, è già da qualche giorno che la stiamo facendo nelle nostre terapie intensive. È una terapia che serve nei casi più leggeri momentaneamente, nell'attesa di vedere come evolvono, insomma, che si evolve e che si liberino posti di terapia intensiva. Chiaro. E ricordo che anche i vari esperti, i virologi, hanno detto che questa è la settimana cruciale, questa è iniziata, per capire quale sarà l'andamento dell'epidemia di coronavirus, se ci sarà una curva di tipo esponenziale oppure se, come speriamo, insomma, cominci il rallentamento e a discendere. Grazie dottoressa Cristina Mascheroni. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Ricordo, presidente dell'Associazione degli Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Lombardia. Adesso abbiamo parlato molto di Italia. Per quanto riguarda l'Europa, vedevo la prima ministra della Scozia con la sua principale consulente sull'epidemia di coronavirus, Catherine Calderwood, che hanno detto, mi pare impressionante questo dato, che tra il 50 e l'80% della popolazione della Scozia potrebbe essere contagiata dal coronavirus. Chiaramente poi stiamo dicendo per lo più, per la gran parte dei contagi della gente che viene contagiata, si tratta di poco più di un'influenza, quindi però quando si dice tra il 50 e l'80% della popolazione, non si capisce se esagerano oppure. Comunque staremo a vedere. Ma cosa succede in Francia? Macron dovrebbe aver avuto una riunione d'emergenza intorno alle 20, ma adesso sentiamo il nostro Danilo Ceccarelli dalla Francia. Ciao Danilo. Sì, buonasera. Mi pare che anche lì, insomma, si stiano prendendo misure stringenti, perché vedevo l'ultimo dato di qualche minuto fa, 191 casi di contagiati, 61 più di ieri, i deceduti salgono a 3, l'ultima vittima è una donna di 89 anni. Ci dici, Danilo, cosa sta succedendo e se appunto anche le autorità in Francia si stanno preoccupando? Esattamente, come hai detto anche te in studio, la terza vittima, la signora, è risultata positiva al test, tra l'altro dopo essere deceduta. E qui in Francia la preoccupazione sale, ricordo, il paese al momento si trova si trova al secondo dei tre stadi previsti per queste situazioni. Adesso le autorità hanno dato più che altro delle raccomandazioni ai cittadini, come ad esempio ricordo quella di non stringere la mano, limitare gli spostamenti, poi sono stati anche vietati tutti quei raduni che contano almeno 5.000 persone. Il paese entrerà nella terza fase quando ci sarà una epidemia vera e propria, e in quel caso ci potrebbero essere delle misure più stringenti. Intanto ricordo che sono molti gli eventi che sono stati annullati, eventi importanti, molto famosi qui in Francia, come ad esempio il Salone del Libro di Parigi, il Salone del Turismo, la Maratona di Parigi. Poi anche questa mattina il Louvre è rimasto chiuso in seguito a una decisione presa all'unanimità, quasi all'unanimità, dai circa 300 dipendenti che hanno votato a favore dell'esercitare il diritto all'allontanamento, che è un articolo specifico del codice del lavoro francese secondo il quale è possibile cessare la propria attività nel momento in cui si dovesse presentare un pericolo grave. Ecco, la situazione preoccupa i francesi, questo lo dimostra anche un recente sondaggio secondo il quale il 61% dei francesi si dice preoccupato dal coronavirus. Eh sì, anche gli italiani lo sono, anche se vedo molti ascoltatori che insomma cercano un po' di razionalizzare. C'è appunto, per esempio, vediamo Guido che dice: sono perplesso ma senza drammi, comunque molto limitato e condizionato, e preoccupato anche per l'impatto economico che è incalcolabile. Molti, ecco, puntano su, sono più in ansia per le conseguenze economiche. Antonella dice: sto cercando di vivere la situazione con una buona dose di razionalità, di adottare tutte le precauzioni indicate dagli esperti senza farmi prendere dal panico in attesa di un miglioramento della situazione. Marco dice: credo che in una situazione così confusa dobbiamo affidarci alla scienza e mantenere la calma. Fabrizio: con una lieve preoccupazione cerco di seguire le indicazioni delle autorità. Insomma, tutti molto razionali, per lo più, devo dire, gli ascoltatori di Effetto Note sulla pagina Facebook. Danilo, quindi chiaro, un po' di preoccupazione c'è perché la si vede espandersi un po' in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, adesso che finora si erano mantenuti abbastanza così defilati, mi pare che ci sia quest'ansia. Però la reazione, Danilo, a parte il fatto di dirlo, di esplicitarlo, che si è in ansia, poi per il resto la vita è normale ancora a Parigi, in Francia? Sì, la vita è normale, anche qui la razionalità per il momento la fa da padrona. Qui a Parigi, dove vivo io, si comincia a vedere nelle strade ovviamente qualche passante con la mascherina, ma non ci sono certo scene di panico, per carità. I giornali, i media cominciano a riportare immagini di qualche supermercato in giro per la Francia che è stato svuotato dai clienti, che hanno preso principalmente beni di prima necessità come latte, pane, riso, ma si tratta comunque ancora di casi isolati. Il ministro dell'economia, tra l'altro, Bruno Le Maire, ha lanciato un appello alla responsabilità dei francesi per evitare anche penuria di prodotti, ma per il momento diciamo la situazione è ancora sotto controllo. Grazie allora da Parigi a Danilo Ceccherelli. Ciao Danilo. Grazie a voi, buona serata. Buona continuazione, bonsoir. E poi ancora tanti vostri messaggi, vedo tutti abbastanza così contenuti. Pietro dice: un po' di ansia ma niente panico, seguiamo le disposizioni. Poi Antonino: viviamo come in una sorta di limbo con la speranza che tutto torni alla normalità. Antonio si dice: certo che non moriremo per il virus, forse moriremo di fame. Dice Angelo: una settimana di relax ed ora altri 7 giorni di pace, mai stato così bene. Dice Angelo: dove sei, Angelo? Nel senso, sei in una spa oppure sei in una zona rossa e quindi comunque sei a casa e ti va bene così? Rossella: non è facile definire uno stato d'animo nel momento in cui i media dicono tutto il contrario di tutto. No, in realtà noi semplicemente, almeno per quanto riguarda Radio 24 e Effetto Notte, riportiamo tutto ciò che succede, che le dichiarazioni degli esperti, le dichiarazioni delle istituzioni e man mano anche i casi enunciati, quelli certificati dalla Protezione Civile. Ci sentiamo un momento, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Note, siete al posto giusto, nel momento giusto, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera che vi rende coscienti, consapevoli delle cose più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero, a raccontarvele Roberta Giordano, approfondendole poi insieme agli ospiti. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Note, dove state continuando a scrivere le vostre sensazioni e sentimenti rispetto a questa situazione così eccezionale dell'epidemia del coronavirus. Roberta dice: ci vuole cautela, ma si va avanti con resilienza. Poi Sandro si dice completamente sereno. Francesco dice: sono tranquillo aspettando che passi. Floriano in crociera con Costa Smeralda senza problemi. Floriano, ci scrivi dalla tua crociera, complimenti. Poi Giuliano: siamo tranquilli e sereni. Mi fa piacere che la gran parte, insomma, delle persone, di chi ascolta Effetto Note, sia piuttosto sereno, tranquillo, tanto il panico non serve a niente. Comunque, insomma, se ascoltate qui Effetto Note tutte le sere, vi racconto tutto quello che c'è da sapere. Adesso, sempre a proposito delle notizie legate al coronavirus e anche dei vari effetti, come vogliamo dire, collaterali dell'indotto, se mi passate questo termine, giusto per questa situazione emergenziale, le scuole, come sapete, sono chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna da diversi giorni, saranno chiuse ancora tutta questa settimana, e poi si aggiungono anche il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte e la provincia di Pesaro nelle Marche. Si sta sperimentando, come sapete, la didattica a distanza, quindi via web, per non far perdere parte, insomma, del programma scolastico ad allievi, studenti, piccoli e grandi. E c'è ancora, non si capisce se ci sarà un allungamento dell'anno scolastico, per il momento non se n'è più parlato, però certo la pulizia non si può fare a distanza come invece la didattica, le scuole vanno pulite. Qualcuno dice, ma dice Stefano da Padova, ma se in realtà i virologi hanno spiegato che non serve pulire, igienizzare le scuole, perché tanto sugli oggetti non rimane più di tanto il virus. No, ma in questo caso si tratta comunque di tenerle pulite le scuole, anche se sono chiuse, e tra l'altro c'è questo problema, che sarebbero a rischio 32.000 plessi scolastici a rischio pulizia. Dal 1 marzo, cioè da ieri, sono state internalizzate le pulizie delle scuole, cioè sono state avocate direttamente dal Ministero dell'Istruzione a se stesso, interne, quindi non più per il momento almeno affidate a società esterne. Però qual è il problema? Che circa 5.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato full time dalle imprese sono a questo punto in esubero con le procedure di licenziamento avviate. E c'è una nota di Marco Miccoli, responsabile lavoro del Partito Democratico, che dice: in queste ore il paese non può permettersi 4.000 esuberi, bisogna trovare una soluzione. Ne voglio parlare con Lorenzo Mattioli, che è presidente di ANIP Confindustria, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati. Mattioli, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Io ho cercato di sintetizzare al massimo, ma insomma qui c'è in bilico il lavoro e la vita di un po' di migliaia di persone, quindi Mattioli. Ma intanto mi permetta di ringraziarla, perché è davvero l'unica trasmissione oggi tra telegiornali, radiogiornali, che sta dando uno spazio a una questione gravissima. Ci mancherebbe. Sono 2 anni che denunciamo questa cosa, l'avevamo detto, però questo non è solo il tema. Oggi la verità è che il 2 marzo, come ha detto lei, siccome sono stati soppressi i servizi di pulizia delle scuole che prima erano svolti dalle imprese esterne, che io rappresento, ovviamente non solo io, insieme anche ai colleghi delle cooperative, e attraverso una legge dello Stato, che era 145, la legge del bilancio del 2019, il governo, mi lasci dire in particolare 5 Stelle, hanno deciso di internalizzare, cioè di stabilizzare questi lavoratori. Due numeri semplici: attualmente, anzi prima del 1 marzo, a questo punto i lavoratori erano 16.700, il MIUR ha fatto un concorso per 11.200, oggi hanno preso servizio non sappiamo ancora quanti, ma la vera notizia è che oggi purtroppo in tutte le scuole italiane, quelle aperte, i servizi di pulizie non sono state fatte. L'ha detto bene lei, io ho ascoltato tutta la trasmissione, nel pieno dell'emergenza coronavirus, con tutte le attenzioni del caso, è possibile che il governo, che Conte, si è dimenticato che i servizi di sanificazione, me lo faccia dire, è una parola bella, una parola importante, non sono stati svolti, perché giustamente, non essendoci più le imprese, oggi i presidi sono chiamati a svolgere questa attività, quindi invece di occuparsi del core business della scuola, i nostri ragazzi si sono messi a fare anche gli appalti, e purtroppo in molte di queste scuole questo non è accaduto, ci sono state diverse denunce. Domani noi faremo una conferenza stampa a Roma, all'Hotel Nazionale, per raccontare che cosa effettivamente è successo. La cosa più grave, come ha detto lei, è che questi lavoratori, che prima erano preassunti dalle imprese, avevano un contratto a tempo indeterminato ed erano garantiti da un contratto nazionale e quello multiservizi, e che oggi è stato dimezzato lo stipendio, e gran parte di questi, circa 5.000, sono in esubero. E quindi è una strana stabilizzazione, la prima volta nella storia che si stabilizza questi grandi disoccupati. Mattioli, comunque, allora, prima leggevo proprio in sintesi la nota del responsabile del lavoro del Partito Democratico, Marco Miccoli, che appunto diceva che bisogna assolutamente trovare una soluzione, l'avvertenza non può chiudersi, leggo sempre la nota, senza un accordo che tuteli l'occupazione e il reddito di così tante lavoratrici e lavoratori. Inoltre siamo in una situazione di emergenza sanitaria e abbiamo bisogno di moltiplicare gli sforzi per tenere in sicurezza le nostre scuole e la salute dei nostri ragazzi. Faccio appello al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quindi domani farete una conferenza stampa per chiudere, dottor Mattioli, e comunque contatti diretti col governo li avete presi? Guardi, noi abbiamo fatto anche la scorsa settimana diverse riunioni al Ministero del Lavoro, dove voi, ho visto, avete dato grande spazio al ministro Azzolina, alla quale si è assunta una responsabilità, anzi si è assunta una irresponsabilità, perché per fare propaganda politica, per cementare la loro alleanza con l'USB, questo nuovo sindacato che ormai evidentemente appoggia il 5 Stelle, ha creato questo mostro. Io capisco che la politica in queste ore si sta preoccupando dei 4.000 esuberi, ma la domanda è molto semplice. Se prima tutti questi lavoratori erano occupati dalle nostre aziende con contratto a tempo indeterminato e le pulizie e la sanificazione era affidata alle nostre imprese, che ripeto, noi siamo i professionisti, siamo le imprese dei servizi che fanno i servizi attualmente negli ospedali, in tutti i luoghi pubblici che noi conosciamo, perché è stato creato questo disservizio? Perché si è creato questo problema? Cioè, questo è il vero tema. Io capisco che in queste ore il PD, il governo, chi per adesso si stia preoccupando di questo, e anche nell'ultima riunione si è parlato di cassa integrazione, ma perché abbiamo dovuto creare questo ennesimo carrozzone? Questa era una cosa che funzionava. La cosa grave è che, come ha detto lei, che in queste ore, con l'emergenza coronavirus, noi mandiamo i nostri figli, i nostri ragazzi in delle scuole che purtroppo non sono pulite. Oggi nessuna scuola italiana è stata pulita dalle nostre imprese. Così risponde anche un ascoltatore che scrive: scandaloso, ma non ho capito oggi chi le pulisce le scuole. Nessuno, quindi, Mattioli, sta dicendo. Lei capisce. Questa, quindi, la ringrazio, perché lei è l'unica che fa questa denuncia in Italia, quindi doppiamente grazie a lei e a Radio 24. Grazie a lei, dottor Lorenzo Mattioli. Speriamo che, insomma, una risposta concreta arrivi. Ricordo Lorenzo Mattioli, presidente dell'Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati. Grazie, Mattioli. Grazie a voi. Speriamo, allora, e buon lavoro. Grazie anche a lei. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi. Lasciamo per qualche istante, qualche minuto, il tema del coronavirus e tutti gli argomenti connessi. Ci spostiamo su un'altra questione, un caso di cronaca nera avvenuto a Napoli. Vedo diversi vostri messaggi anche su questo, tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è sempre il numero per SMS e WhatsApp. Dice, per esempio, Guido da Ferrara: visto che il ragazzo era minorenne, sono responsabili i genitori che non hanno saputo educare e andrebbero perciò arrestati. Nicola da Milano dice: per la tragedia di Napoli e la conseguente devastazione del pronto soccorso vale il detto omeopatico similibus curantur. Commento superfluo, dice Nicola, vabbè, i simili si curano con simili. E poi anche qualcun altro che di nuovo dice: dalle famiglie disadattate bisognerebbe sottrarre i figli, educarli in apposite strutture. Insomma, naturalmente ognuno dà il proprio parere, ma concentriamoci su quelli che sono i fatti. Che cosa è successo? Ormai lo sapete, avete sentito in questi giorni, di questo ragazzo quindicenne che ha tentato a Napoli di rapinare tra sabato e domenica un carabiniere puntandogli una pistola alla tempia. Il carabiniere ha reagito sparando e lo ha ucciso. La procura di Napoli ha iscritto nel registro di indagati questo carabiniere di 23 anni con l'accusa, è notizia di oggi, di omicidio volontario. Un carabiniere di 23 anni. Il ragazzo rimasto ucciso è Ugo Russo, di 15 anni, aveva in mano questa pistola risultata una replica di quelle vere, però priva del tappo rosso davanti, che fa capire che è soltanto una replica, e la vittima era con un 17enne che adesso è stato fermato con l'accusa di tentata rapina. Per avere dei dettagli in più, allora, mi rivolgo a Melina Chiapparino, giornalista del quotidiano Il Mattino. Buonasera Melina, grazie della disponibilità. Buonasera a voi tutti. Sì, in effetti sono ore concitate perché si attendono poi quelle che sono le valutazioni sia dei reperti balistici sia per quanto riguarda l'autopsia che ovviamente verrà effettuata sul corpo del quindicenne che ha perso la vita. La questione ovviamente anche per procedura è stata circoscritta a quello che è un omicidio volontario, cioè l'indagine è scattata per omicidio volontario, sebbene le prime invece informazioni riguardavano un eccesso di legittima difesa. Invece in questo momento le indagini appunto sono attestate per quanto riguarda questo tipo appunto di accusa, omicidio volontario, ma ovviamente tutto da appurare e tutto da accertare. Come dicevo, gli elementi principali saranno sicuramente le traiettorie e le definizioni appunto di quelli che sono stati poi i ferimenti principali. In particolare c'è un colpo che potrebbe fare da scacchiera, quello alla nuca. Quello che praticamente poi ha anche determinato le condizioni critiche che di conseguenza hanno comportato la morte del ragazzo. Questo colpo alla nuca è da vedere in che tempi e secondo quale dinamica è stato esploso. Questa potrebbe essere una chiave per quanto riguarda le indagini, per quanto riguarda poi tutto il decorso di questa vicenda. Melina, però confermi da quello che stavo leggendo anche che parte la devastazione, no, del pronto soccorso, lo ricordiamo, dopo che è morto il quindicenne, parenti e amici del ragazzo hanno devastato completamente il pronto soccorso, quindi anche danni e aggressioni al personale sanitario, insomma, che non c'entrava niente in questa vicenda. Pare che il ragazzo, adesso sentiamo anche il padre che cosa ha detto del quindicenne ucciso, pare che avesse fatto poco prima un'altra rapina, ma sentiamo il padre che cosa ha detto. Le sparate in bietto, perché quando si è girato le sparate da capo? Voglio capire questo. Adesso su cose, secondo me, su ragazzate, su che non voglio ogni 15 anni, cioè, si sono un professionista, la prima cosa che si ti faccio una rapina, la prima cosa che preacquisisco, dove invece. Cioè, per me è una cazzata. Insomma, si chiede il padre come mai ha sparato prima al petto e poi alla nuca. Per me è una ragazzata, ha detto anche una cazzata, insomma, per dire, voleva un po' sminuire, no, la cosa. Però è vero che è stato ritrovato anche un altro orologio, un altro Rolex, una catenina d'oro, come se avesse poco prima fatto quindi un'altra rapina, Melina? Allora, innanzitutto confermo che è stato ritrovato un altro Rolex e una catenina d'oro nelle tasche del ragazzo, quindi questo potrebbe far fare quasi un'equazione matematica. Certo, è tutto da provare, però comunque confermo il ritrovamento di questi oggetti che presuppongono atti delinquenziali che hanno preceduto questo tentativo di rapina. Ovviamente tutto si deciderà in tribunale, però c'è una precisazione. Il colpo è alla spalla, non è al petto. I due colpi sono alla spalla e alla nuca, quindi ovviamente tutto quello che viene detto a caldo e nei momenti di così forte dolore, insomma, poi deve essere vagliato da quelli che sono i fatti. In questo momento i fatti più importanti sono proprio la ricostruzione dell'esatta dinamica, anche perché il carabiniere ha raccontato di aver sentito uno scarrellamento della pistola, trattata di una pistola, però non è propriamente una pistola giocattolo, è una replica di una pistola. Sappiamo che le repliche sono anche dello stesso materiale, di una pistola reale. Quindi difficile distinguere, certo. Comunque, appunto, aspettiamo di vedere un po' sia dall'autopsia sia dalla ricostruzione della balistica che cosa sia successo. E magari ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie Melina Chiapparino del Mattino. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Mi sembra che sia abbastanza chiaro quello che possono essere le soluzioni migliori o le meno peggio, perché tanto una perfetta che vada bene al 100% a tutti non esiste. E in questi casi bisogna compattare la squadra, o quantomeno compattarla il più possibile. Questo è Malagò, presidente del CONI, caro Dario Ricci, che sei venuto a trovarmi. Buonasera, studio. Ciao Dario, qua. Perché il mondo del calcio, dello sport in generale, in Italia e nel mondo, adesso sta cercando di capire che fare degli eventi, degli avvenimenti, delle gare, delle partite, no? Vista l'emergenza del assolutamente, coronavirus. Assolutamente, si cerca di dribblare il virus, sempre virus permettendo, perché chiaramente si naviga anche un po' a vista e un po'. tenendo questa rotta, il consiglio straordinario della Federcalcio, che si è riunito via conference call proprio in riunione che si sta concludendo in questi minuti, ha rilanciato ufficialmente quella proposta già ipotizzata dai più già ieri in tarda serata, cioè quella di recuperare fra sabato 7 e lunedì 9, quindi il prossimo fine settimana, le 6 partite rinviate nello scorso fine settimana, incluso il big match tra Juventus e Inter, big match che dovrebbe quindi, secondo questa proposta, disputarsi lunedì sera alle 20:45 a Torino, e speriamo a quel punto a porte aperte, anche se questo chiaramente dal punto di vista burocratico dovrebbe essere così, perché scadono le ordinanze emanate per le regioni della zona gialla. Questo chiaramente permetterebbe anche ai tifosi dell'Inter provenienti da Milano di recarsi allo stadio di Torino. È chiaro che poi quelle ordinanze, lo sappiamo tutti, verranno poi aggiornate, certo, di conseguenza proprio a ridosso della scadenza e secondo l'evolversi dell'epidemia. È proposta che è sul tavolo delle società. Sentendo le fonti, l'Inter si è comunque detta contraria, perché avrebbe voluto che prima venisse calendarizzato il recupero di Inter-Sampdoria, altra gara rinviata dei nerazzurri questa ancora 2 settimane fa, no? Allo scoppio, diciamo, dell'epidemia in modo conclamato in Italia. Ma insomma, diciamo che, come sottolineava Malagò, difficile far contenti tutti, e questa sembra essere la quadratura del cerchio meno dannosa, o comunque più funzionale in questo momento, in un momento in cui il Moto Mondiale, dopo aver cancellato la prova della MotoGP in Qatar, che avrebbe dovuto aprire il campionato questo fine settimana, ha rinviato anche il GP dell'Atalanta, è proposto in calendario il 22 marzo, e insomma i rinvii si seguono, anche se oggi c'è stata anche una buona notizia. Diciamola questa buona notizia, su, anzi, Dario. Se mi permetti, due. Te lo permetto. Perché da un lato il board del Sei Nazioni ha confermato la gara del 14 marzo del rugby maschile, e quindi a cascata anche le gare delle nostre ragazze per il 14 marzo a Roma tra Italia e Inghilterra, salvo disposizioni governative diverse. E poi è stata assegnata a Torino la finale della Champions League femminile di calcio per il 2022. Insomma, diciamo, grande soddisfazione del presidente della Federcalcio proprio... Gravina, grande soddisfazione dell'allenatrice della nazionale femminile Milena. Speriamo che a quella data tutta questa parentesi sia davvero lontano ricordo. Ti ricordi, sì. Dario? No, non me lo ricordo, non so se perché sarà invecchiato oppure perché probabilmente per quello, probabilmente proprio per l'età. Speriamo in un altro caso. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao caro Dario, noi ci sentiamo velocissimamente alle 22:00.